In tutta quella conversazione Gilbert mi aveva parlato di Robert con una deferenza che sembrava rivolta al mio vecchio amico più che al suo defunto sposo. Sembrava che volesse dirmi: «So quanto lo ammiravate, lo sapevo, credetemi che era un essere superiore». Eppure, l'amore che sicuramente non portava più al suo ricordo era forse ancora la causa remota di certe particolarità della sua vita attuale. Gilbert, così, aveva adesso per amica inseparabile André. Sebbene quest'ultima cominciasse, soprattutto grazie al talento di suo marito e alla sua propria intelligenza, a penetrare, non certo nel giro dei Guermantes, ma in una società infinitamente più elegante di quella che frequentava un tempo, destò grande stupore che la marchesa di Saint-Leu si degnasse di diventare la sua migliore amica. Il fatto parve, in Gilbert, un segno della sua inclinazione per quella che lei credeva un'esistenza artistica e per un effettivo decadimento sociale. Può darsi che fosse questa la vera spiegazione. Tuttavia me ne venne in mente un'altra, sempre molto compresa del fatto che le immagini che vediamo riunite in un certo punto sono generalmente il riflesso, oppure in un modo o nell'altro l'effetto d'un primo raggruppamento, alquanto diverso, sebbene simmetrico, di altre immagini estremamente lontano dal secondo. Pensavo che se si vedevano ogni sera insieme André, suo marito e Gilbert, era forse perché, tanti anni prima, il futuro marito di André, che prima viveva con Rachel, l'aveva poi lasciata per André. È probabile che allora Gilbert, nell'ambiente troppo distante, troppo elevato in cui viveva, non ne avesse saputo niente. Ma doveva averlo scoperto più tardi, quando André era salita e lei stessa era scesa quanto bastava perché potessero vedersi. Allora doveva aver esercitato su di lei un grande fascino, la donna per la quale Rachel era stata abbandonata dall'uomo, peraltro sicuramente seducente, che lei aveva preferito a Robert. Si sentiva la principessa di Guermantes ripetere in tono esaltato e con voce resa sferragliante dalla dentiera: «Ah sì, lo faremo questo clan, lo faremo, mi piace questa gioventù così intelligente, così partecipativa. Ah, che mugicista che siete!» E si piantava il monocolo nell'occhio tondo, un po' divertita, un po' scusandosi di non poter sostenere a lungo l'allegria, ma decisa fino in fondo a partecipare, a fare clan. Così la vista di André ricordava forse a Gilbert quel romanzo della sua giovinezza che era stato il suo amore per Robert, e le ispirava anche un grande rispetto per André, di cui continuava ad essere innamorato, un uomo tanto amato da quella Rachel che, Gilbert lo sentiva, Saint-Leu aveva amata più di quanto avesse amato lei stessa. Forse, al contrario, questi ricordi non avevano alcuna parte nella predilezione di Gilbert per quell'unione di artisti, e in essa bisognava vedere semplicemente, come facevano molti, le tendenze, abitualmente inseparabili nelle donne del gran mondo, a istruirsi e a incanagliarsi. Gilbert aveva forse dimenticato Robert come io Albertine. E se anche sapeva che l'artista aveva lasciato Rachel per André, quando li vedeva non pensava mai a quel fatto, che non aveva mai avuto alcuna parte nella sua inclinazione per loro. Sarebbe stato possibile decidere se la mia prima spiegazione fosse non solo possibile, ma vera, solo grazie alla testimonianza degli interessati, unica risorsa possibile in un caso del genere, ammesso che essi fossero in grado di mettere lucidità e sincerità nelle loro confidenze. Ora, nella prima ci si imbatte raramente, nella seconda mai. In ogni caso, la vista di Rachel, diventata oggi un'attrice celebre, non poteva essere molto piacevole per Gilbert. Appresi dunque con rammarico che avrebbe recitato dei versi a quel ricevimento, e come era stato annunciato, Le souvenir di Musset e alcune favole di La Fontaine. «Ma come mai venite a dei ricevimenti tanto affollati?» mi chiese Gilbert. «Ritrovarvi in un simile macello? Non è questo lo schema che avevo di voi. Ma aspettavo di vedervi dappertutto tranne che a una delle super cerimonie di mia zia, perché zia è...» «Non è vero», aggiunse con finezza, in quanto Madame de Saint-Lieu, essendo entrata nella famiglia un po' prima di Madame Verdurin, si considerava come una Germain da sempre, vittima del matrimonio degradante che suo zio aveva fatto sposando Madame Verdurin e che, è vero, in famiglia aveva sentito deridere mille volte alla sua presenza, mentre naturalmente era stato solo in sua assenza che s'era parlato dell'analogo delitto perpetrato da Saint-Lieu sposando lei. Gilbert, d'altronde, tanto più affettava di disprezzare quella zia di basso tono, in quanto, per la sorta di perversione che spinge le persone intelligenti a evadere dallo chic abituale, per il bisogno di ricordi, anche tipico delle persone anziane, e infine, per cercare di munire d'un passato la sua nuova eleganza, la principessa di Guermont, parlando di Gilbert, amava ripetere: «Vi dirò che per me non è davvero una novità. Conoscevo per filo e per segno la madre di quella ragazza, ma sì, era molto amica di mia cugina Marson. È stato a casa mia che ha conosciuto il padre di Gilbert, quanto al povero Saint-Lieu. Conoscevo da prima tutta la famiglia. Con suo zio eravamo intimi ai tempi della Raspellier». «Vedete che non erano affatto degli artistoidi, quei Verdurin», mi diceva chi sentiva questi discorsi dalla principessa di Guermont. «Erano amici da sempre della famiglia di Madame de Saint-Lieu. Ero forse il solo a sapere, grazie a mio nonno, che in realtà i Verdurin non erano degli artistoidi, non precisamente, tuttavia, per il fatto d'aver conosciuto Odette. Ma è facile aggiustare i racconti del passato che più nessuno conosce, come quelli dei viaggi in paesi dove nessuno è mai stato». «Insomma», concluse Gilbert, «visto che qualche volta uscite dalla vostra torre d'avorio, qualche piccola riunione intima a casa mia, dove inviterei persone simpatiche ed ingegno, non vi andrebbe meglio? Questi enormi baracconi non sono davvero fatti per voi. Vi ho visto conversare con mia zia Orion, che avrà tutte le qualità del mondo, ma alla quale non si fa certo un torto, non vi pare, dicendo che non appartiene all'élite del pensiero». Non potevo mettere Gilbert al corrente dei pensieri che mi occupavano da un'ora, ma ritenni che, in termini di pura distrazione, avrebbe potuto contribuire ai miei piaceri, i quali, in effetti, non mi sembrava dovessero consistere nel parlare di letteratura con Madame de Guermont più che con Madame de Saint-Lieu. Naturalmente avevo intenzione di ricominciare sin dal giorno dopo, ma stavolta con uno scopo: a vivere in solitudine. Nemmeno a casa mia avrei lasciato che si venisse a trovarmi nei momenti di lavoro, perché il dovere di realizzare la mia opera prevaleva su quello della cortesia o anche della bontà. Sicuramente avrebbero insistito, loro che non mi vedevano da tanto tempo, ora che mi avevano ritrovato e mi credevano guarito, venendo quando le fatiche della loro giornata o della loro vita fossero finite o interrotte, e allora con lo stesso bisogno di me che avevo avuto io un tempo di Saint-Lieu. E perché, me ne ero già accorto a Combray, quando i miei genitori mi rimproveravano proprio nel momento in cui avevo fatto, a loro insaputa, i più lodevoli proponimenti. Gli orologi interiori assegnati agli uomini non sono tutti regolati sulla stessa ora. Uno suona l'ora del riposo, mentre l'altro suona quella del lavoro. Uno quella del castigo che il giudice deve infliggere quando nel colpevole è già suonata da tempo quella del pentimento e del perfezionamento interiore. Ma a chi fosse venuto a trovarmi o m'avesse fatto cercare, io avrei avuto il coraggio di rispondere che avevo, per cose essenziali di cui era necessario che venissi messo al corrente senza indugio, un urgente, capitale appuntamento con me stesso. E tuttavia, sebbene vi sia uno scarso rapporto fra il nostro io vero e l'altro, a causa dell'omonimia e del corpo in comune fra i due. L'abnegazione che ci fa sacrificare i doveri più facili sembra agli altri egoismo. D'altronde, non sarebbe forse stato per occuparmi di loro che sarei vissuto lontano da quanti si sarebbero lamentati di non vedermi, per occuparmi di loro più a fondo di quanto mai avrei potuto fare assieme a loro, per cercare di rivelarli a loro stessi, di realizzarli. A che cosa sarebbe servito se ancora per anni avessi perso delle serate a far scivolare sull'eco appena svanita delle loro parole il suono altrettanto vano delle mie, per lo sterile piacere di un contatto mondano che esclude ogni penetrazione? Non sarebbe stato meglio se i gesti che facevano, le parole che dicevano, la loro vita, la loro natura, io avessi cercato di descriverne la curva, di estrarne la legge? Purtroppo avrei dovuto lottare contro l'abitudine di mettersi al posto degli altri, che favorisce, è vero, la concezione di un'opera, ma ne ritarda l'esecuzione. Infatti, essa induce a sacrificare agli altri, per una superiore cortesia, non solo il proprio piacere, ma anche il proprio dovere, quando, mettendosi al posto degli altri, tale dovere, qualunque esso sia, fosse anche per chi non può prestare alcun servizio al fronte di rimanere nelle retrovie dove è utile, appare, cosa che in realtà non è, come il nostro piacere.